Comics 24, i gialli della storia. Ho letto tanti fumetti, insomma, sicuramente sono stati un momento di raccoglimento, ecco, anche la comprensione di come si crea una storia, di un personaggio. Quelle storie che mi sembravano lunghissime, invece a vederle adesso erano di poche pagine. La prima grande emozione di fumetto, invece, è qualche anno dopo, ed è avvenuto nel gabinetto di una scuola elementare dove un mio amico andava a leggere Tex. Sono stato a Venezia qualche anno fa a fare una lezione al master di traduzione dall'inglese che c'è a Ca' Foscari, e dove poi è uscito naturalmente una cosa sul Gazzettino con il notaio delle toffolette. Da Topolino a Lanford, da Tex Willer a Charlie Brown, passando per Diabolique, l'uomo mascherato, i Fantastici Quattro e tutti i supereroi con i poteri strabilianti. Quello dei fumetti è un mondo incredibile e immaginario, ma anche un sogno che lega tra loro generazioni di tutto il mondo. Oggi a Mix24, per i 30 anni di Dylan Dog, vogliamo raccontare la storia del fumetto italiano attraverso le voci e l'emozione di Tiziano Sclavi, creatore dell'Indagatore dell'Incubo e poi appassionati del genere, i registi Bernardo Bertolucci, Gabriele Salvatores e lo sceneggiatore Furio Scarpelli. Questo viaggio parte dal 1908, l'anno in cui in Italia viene pubblicato per la prima volta il Corriere dei Piccoli, a diffusione settimanale. Il Corrierino porta per primo in Italia il fumetto americano, le cosiddette comic strips, adattandole a un pubblico tutto nuovo. Io credo che tutto quello che ti aiuta a sognare, soprattutto in quell'età lì di formazione, è benvenuto. I fumetti davano erano una straordinaria piattaforma da cui prendere il volo per sognare. Ma all'epoca non si chiamava, quando io lessi la prima volta i fumetti, penso che non si chiamassero fumetti, non si chiamavano. Quindi adegua queste storie un po' infantili, buffe, comiche, a un linguaggio infantile, accompagnandole non con i soliti fumetti, con i balloons o con le parole scritte dentro, ma con le filastrocche. Mio mamma mi piaceva tanto. Sbucciava, toglieva l'interno da una salsiccia, gonfiava questa pelle di salsiccia, diventava un dirigibile al quale attaccava una scatoletta e volava con questo dirigibile fatto con una pelle di salsiccia attraverso tutto il fumetto, attraverso tutti i riquadri dei fumetti. Mangiava sempre delle cosce di pollo, aveva la bottiglia di latte, e questa immagine di mio Mao io ce l'ho. Il balloon, sai quando nasce? Nasce in America da una intuizione geniale, cioè si trattava di concretizzare uno spazio virtuale assolutamente astratto, ma nel quale doveva essere la sede del parlato. Cominciarono ad osservare le persone, sai quando, d'inverno, quando parlavano. I fumetti che venivano fuori sono stati ripresi e graficamente li hanno sintetizzati in quelle nuvolette all'interno delle quali poi dopo scrivevano. Bisogna arrivare al 1932 per vedere in edicola Topolino e sarà una vera e propria rivoluzione. Ne parlano Graziano Frediani, il pittore Sandro Somarè, il notaio Franco Cavallone e l'editore Sergio Bonelli. Il Topolino di Mondadori, che coniuga e unisce l'elemento umoristico con l'elemento realistico, fa fare alla storia del comic italiano un bel passo avanti. Il più bello di tutti era Il tesoro di Clarabella, che era un capolavoro disegnato in una maniera fantastica. Topolino è stato veramente un mito per la mia per molti della mia generazione, anche dei colleghi con i quali ci scambiamo ogni tanto queste battute, queste citazioni dai famosi Topolino degli anni 30, Lampo Nero Denaro Sicuro, che era il nome di un cane da corsa. Oh, because we love you. Quello che è bello, che è raro, che pochi sono accorti, almeno c'è l'occasione, che sono tutti disegnati con quattro dita, che è fantastico, però. Quella lì è la più grande invenzione che solo nel fumetto è venuto, né nella pittura, nella storia, non c'è niente, nessuno che abbia adattato il corpo umano per esigenze grafiche in quel modo, perché mettere quattro dita a tutti i personaggi, non c'è nessuno che abbia cinque dita. Come along and sing our song and join our family. Ed è l'unico caso, perché nessuno, neanche Picasso, ha usato cambiare così la figura umana nelle distorsioni per esigenze grafiche. La cambia, la distorce, fa tutto. Però se deve fare una mano, le mani, le dita, le conti sono cinque. I conti tornano alla fine. L'unico è stato Walt Disney. In fondo i giornalini sono le prime storie, a parte le favole raccontate dai genitori o dal vecchio contadino nella stalla d'inverno, i giornalini sono le prime storie con cui io mi sono confrontato. Da bambino mi aveva molto impressionato una storia di Topolino contro Robin Hood, perché ogni tanto me la riguardo ancora adesso e non capisco proprio bene cosa, però mi aveva molto impressionato il fatto che c'era una pianta, mi pare che lui saliva e veniva trasportato nell'altro mondo, il libro che si apriva e lui che entrava nel libro. Ecco, quel fatto di lui che entrasse nel libro mi è sembrato una cosa così straordinaria che ancora oggi lo considero una specie di specchio di Alice e vorrei poterlo fare io, ecco, con ognuno dei libri che ho qui intorno. Poi la guerra blocca tutto, non c'è tempo e spazio per la fantasia, ma dopo la liberazione il fumetto torna ad essere protagonista, consacrando nuovi personaggi e nuove avventure. Ancora Bernardo Bertolucci, lo storico Giulio Cesare Cuccolini, Sergio Bonelli, Tiziano Sclavi, il filosofo Giulio Giorello e lo sceneggiatore Furio Scarpelli. Ce n'era uno che si chiamava Sciuscià. E erano tre ragazzini che mi pare risalissero dal sud dell'Italia verso il nord, un pochino come fa l'armata degli alleati, degli americani e degli inglesi, che sale prima della Sicilia verso il nord. E lo stesso questi tre ragazzini scoprivano l'Italia salendo un pochino nelle retrovie dell'armata degli alleati. Pippo e la guerra e Pippo e la pace sono due storie non tra le più conosciute di Iacovitti, ma che trovo, ecco, a dir poco, sublime. Ecco, io credo che l'idea che è venuta a Iacovitti di creare quella storia gli sia derivata dall'osservare la cardina della Germania annessa all'Austria, che stava in un atteggiamento che assomigliava vagamente a un gatto, a una testa di gatto che ingoiava o mangiava la Cecoslovacchia. La Germania e la Cecoslovacchia sono un po' come la Gattonia e la Topagna. Modificando la carta geografica senza togliere nessuna delle due nazioni parte del territorio, ma semplicemente attraverso un insieme di compensazioni, a far sì che la testa del gatto abbia la bocca chiusa e quindi l'atteggiamento soddisfatto, e il topo abbia rinunciato a un parte di territorio per far questo, ma nello stesso tempo abbia guadagnato un po' di territorio a compensazione. Nell'uomo mascherato proprio credevo proprio totalmente, avrei voluto esserlo. Io uno della dinastia, un nipotino. Io mi sono letto montagne di racconti di Tex, prima erano nelle strisce piccole, poi dopo negli albi gigante, come si diceva. Ce li leggevamo appunto dal barbiere, eravamo ben contenti che il barbiere avesse tempi lentissimi e così abbiamo conosciuto Tex, Carson, il figlio di Tex, qualche bella e un po' satanica ragazza o signorina o signora qualche volta che si trova coinvolta nelle avventure del nostro, e poi il terribile Mefisto, eccetera, eccetera. Tex aveva la nobiltà di western di John Ford o di western di Hawks, voglio dire, è un giornalino di grande peso, insomma. Quando arrivava Tex, il primo a leggerlo naturalmente ero io, e poi lo leggevano i miei amici, però devo dire che spesso, usando giornalini, usando i film che vedevo, che mio padre mi portava a vedere, reinventavamo e mettevamo in scena quello che avevamo letto. Giornalini, grande passione, fin da piccolo. Beh, allora ce n'erano pochi, io abitavo a Canneto Pavese, che è un paesino, era un paesino sperduto, oltre po' in collina, e lì arrivavano Tex, Capitan Mickey, Grande Black, Colosso, mi ricordo, e soprattutto mi piaceva Nembo Kid, che poi è diventato Superman in Italia. Come si fa a dire che non hanno un significato di natura letteraria queste cose, se lasciano certe impronte? Forse ci vorrebbe Freud per dire qual è la misura di quello che unisce queste sensazioni che abbiamo avuto leggendo i fumetti da bambini e poi... Prendi per esempio uno dei più bei topolini del secondo dopoguerra, la storia di Topolino contro Topolino, cioè Topolino che trova la sua parte cattiva, come se si fosse sdoppiata, avesse preso esistenza autonoma e fa il contrario di quello che Topolino fa. Quindi relatività del bene e del male, le scambiabilità dei ruoli sociali, il soggetto individuale che si specchia nel suo doppio. È una bellissima ripresa, ma originale e intelligente, di Dr. Jekyll e Mr. Hyde e di tutto il grande tema del doppio, che ci fa capire anche quanto è relativa alla morale. Non nel senso del bene e del male, che poi riprendo il controllo della situazione, ma nel senso della stima pubblica. Topolino, buon cittadino, che è uomo che è stato tutore della legge, retto e coraggioso, improvvisamente esecrato dai suoi vicini perché lo vedono cattivo. Basta un piccolo errore per portare dall'altra parte, a farci capire appunto quanto la linea che divide bene o male è sottile. E in questo mondo fatto tutto di emozioni e fantasie, un posto di rilievo lo copre Walt Disney. Racconta il loro incontro Furio Scarpelli e suo figlio Giacomo. Io personalmente l'ho conosciuto Disney, sai. Siamo stati ospiti suoi a Disneyland, proprio ospiti suoi nel suo albergo, per 5 giorni con una hostess al nostro servizio, mia moglie, io e mio figlio Giacomo. Più o meno giugno del 1965 a Los Angeles, eravamo a cena con mio padre, mia madre, Age, la moglie, suo figlio Alberto, Alfred Hitchcock e sua moglie, e a un certo punto si è avvicinato un signore vagamente brillo con i baffetti per salutare Hitchcock. Si sono appunto salutati, come stai? Bene bene, ciao, e era Walt Disney. E quindi siamo rimasti tutti abbastanza... colpiti, perché appunto da lontano non l'avremmo mai detto. E io poi parlavo male l'inglese, ma insomma ci fu presentato a tutti e dissi che ero membro del club di Topolino, avevo 9 anni. E allora lui mi strinse la mano, prese i nostri nomi e dopodiché noi fummo ospiti per 3-4 giorni a Disneyland di Walt Disney, ospiti di Walt Disney a Disneyland. E la mano non me la sono lavata per una settimana, la mano che gli ho stretto, ecco. Ancora vive di quella emozione. Ma il vero cambiamento radicale del fumetto italiano avviene negli anni 60, quando si inaugura una rivista straordinaria che non è più solo destinata ai bambini, ma che guarda anche a un pubblico più adulto, il Linus. Ne parlano Alfredo Castelli, creatore di Martin Mister, il notaio Franco Cavallone e lo storico Giulio Cesare Cuccolini, Michele Ginevra del centro Andrea Pazienza e Tiziano Sclavi. Frequentavo già la Milano Libri, la libreria appunto che diciamo la pubblicava in un certo senso, ed ero appunto, vivevo in ansiosa attesa veramente, e quando l'ho visto ero stato veramente molto contento, perché per me era proprio la rivista che ci voleva. È successo quasi per caso. Noi eravamo un gruppo di amici, avevamo i nostri interessi culturali, letteratura, libri, in particolare magari il filone di letteratura umoristica inglese, americana. A un certo punto, nel 62, abbiamo comprato una libreria. Nello statuto della società c'era anche l'attività editoriale. E allora, approfittando della società della libreria, gli è venuto in mente di pubblicare delle cose. E quindi abbiamo cominciato con dei libri raccolti in volume di Peanuts. A questo punto il Gandini ha avuto l'idea della rivista. Nessuno di noi ci pensava assolutamente, ma lui veramente con questo entusiasmo trascinatore ci ha obbligati praticamente a farla, anzi l'ha fatta lui. Ed è stato un po' una sorpresa e soprattutto poi è diventata è diventato elemento di curiosità piuttosto vivace la natura di quella pubblicazione. Era una pubblicazione che in parte pescava nel passato, in parte presentava fumetti contemporanei, ma che soprattutto guardava il fumetto con un occhio smaliziato. Non più con l'occhio dell'appassionato così che ingurgita tutto, eccetera, ma con l'occhio un po' raffinato di chi ha un sottofondo culturale e che guarda al fumetto con attenzione, ma anche con un certo distacco e soprattutto con un atteggiamento critico. Ecco. C'era un po' di snobismo, devo dire, in Linus, qui e là, che compariva qui e là, ma era lo scotto da pagare per osservare il fumetto con un'aria distaccata. Con una copertina austera, marrone, con pagine che erano tutte in bianco e nero, c'erano tanti personaggi insieme, c'erano testi, articoli. Ricordo addirittura la consistenza della carta, la sua ruvidità che era diversa da quella degli altri giornalini che conoscevo. Ricordo l'odore, un odore acre, forte. Vedevo questi fumetti in parte divertenti, in parte adatti alla mia età, ma vedevo anche molti altri fumetti che non riuscivo a capire, che li sentivo in qualche modo adulti, ecco, sicuramente più adulti di me. Sicuramente non è stato solo una rivista di fumetti, certo è stata una rivista che ha sdoganato il fumetto, è stata una rivista che ha consentito un approccio intellettuale, maturo, di valorizzazione del fumetto, ma probabilmente è stato anche uno degli strumenti che ci sono stati a disposizione in quegli anni per far acquisire ai lettori di quel periodo una maggiore consapevolezza della realtà, dei suoi problemi, delle possibili interpretazioni. Quindi Linus è stata una rivista che ha permesso delle generazioni di crescere. Fin dall'inizio abbiamo avuto questo appoggio di Umberto Eco, di Oreste Del Buono. Eco aveva organizzato proprio per il primo numero quel famoso dibattito con Oreste Del Buono e Elio Vittorini. Vittorini aveva pubblicato già dei fumetti sul Politecnico ancora nell'immediato dopoguerra, Barnaby mi pare, per cui questo dibattito che in un certo modo nobilitava la materia, il fumetto viene ancora ricordato adesso come un viatico abbastanza eccezionale dal punto di vista culturale. Io Linus l'ho scoperto tre anni dopo, nel 68. Mi sono procurato le tre annate precedenti e poi ho continuato la raccolta fino a pochi anni fa di tutto, cioè ho tutto Linus, tutti i supplementi, e mi ricordo che è stata una rivoluzione. Linus ha obiettivamente rivoluzionato tutto, dalla grafica al modo di vedere i fumetti, ha influenzato moltissimo la cultura italiana, insomma. Una vera rivoluzione che porta il fumetto ad essere anche veicolo di espressioni artistiche alte e autonome, come nel caso del Corto Maltese di Ugo Pratt. Ancora il giornalista Graziano Frediani, lo sceneggiatore Furio Scarpelli e il regista Gabriele Salvatores. Io direi che gli eroi romantici del fumetto italiano più belli sono quelli che hanno messo in crisi la figura dell'eroe perfetto, buono, al 100%, inattaccabile sotto tutti i punti di vista. Il Corto Maltese di Ugo Pratt, che ha portato l'immagine del marinaio che viaggia verso, sulle rotte dell'avventura, lo ha portato invece verso, anche verso una riscoperta di tante emozioni, di tanti sentimenti che si potevano nascondere in mezzo ai luoghi comuni dell'avventura. Lo ha portato sì sui mari del sud di Conrad, di Stevenson, di Melville e di altri narratori, ma ha anche insegnato che l'avventura può essere un percorso interiore. Dietro ogni storia ci devono essere tante, tante, tante, tante altre cose. E Ugo Pratt ce l'aveva, ne aveva di tutti i colori dietro le sue storie, gli oceani, le tradizioni mediterranee, la Venezia nascosta, i segreti di un tipo di avventura tipicamente italiana, tipicamente meridionale, che poi lui però li faceva anche arrivare fino al Sud America. Corto Maltese, credo che mi abbia veramente fortemente influenzato anche nei film che ho fatto. C'è questa dimensione epica e malinconica nello stesso tempo. Di Corto Maltese su un'amaca a guardare il fondo del mare, lì non è niente che un momento di pigrizia, però quella pigrizia inquadrata in quella maniera, disegnata in quella maniera, con quell'espressione in questi occhi che diventano quasi fessure di Corto Maltese, diventa poesia. E questa è una grande capacità che ha Ugo Pratt. Quindi il fumetto non è più un oggetto dedicato solo ai bambini, ma un vero punto di riferimento per l'arte e la cultura. E allora se ne può fare anche una lettura più alta, come fa il filosofo Giulio Giorello. Essendo un mondo così ricco e così variegato, io credo che alcuni personaggi possano diventare degli emblemi filosofici, possano giocare con la filosofia, possono usare la filosofia per costruire se stessi. Dylan Dog, per esempio, che gioca a scacchi con la morte, quasi rifacendo il verso al Tractatus di Wittgenstein. Oppure quello straordinario filosofo con la Colt, come viene definito in una bellissima storia, che è Tex Willer. La storia è un'avventura di Tex coinvolto nella spedizione americana per tracciare un canale che poi dovrebbe essere quello di Panama, ma un po' prima il tentativo fallisce, quindi è una filosofia dell'insuccesso in questo caso particolare. Oppure una filosofia portata ai limiti della maraviglia e della fantascienza, come in Martin Mister. Oppure una profonda meditazione sull'uomo e il suo destino, come in Ugo Pratt, in particolare in Corto Maltese. E naturalmente filosofo della gioia, dell'avventura, ma anche problematico più di quanto non sembri, contestatore dell'ordine stabilito prima di diventare uomo della legge, Topolino. Il fumetto è allora un mondo da scoprire, a cui dedicare attenzione, perché potrà ancora riservarci meravigliose, fantastiche sorprese.